24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori e qui con me c'è Franco Schipani, ciao Ale! Che mi fa il verso. Siamo nel 1983 e come tutti i venerdì, anno per anno, vi raccontiamo gli anni 80. Franco, caro Franco, caro Franco, chi c'è in cima alle classifiche in questo 1983? Beh, la canzone numero uno in Italia nel 1983 è questa. Irene Cara, Flashdance. Vabbè, Franco, è indimenticabile. La colonna sonora di Flashdance, Jennifer Beals, grandissima, che era una saldatrice di giorno e una ballerina sempre. Ma non soltanto, pensa che lei prima di diventare famosa faceva la controfigura per il corpo. Cioè, immagina una scena di un'attrice molto carina che doveva fare una scena carina. Sì, diciamo che doveva fare una scena di nudo. Sì. Allora, dice, ci serve un corpo meraviglioso per mettere giù in sottofondo, ha capito, lì tra le lenzuola, eccetera, che abbiamo Jennifer Beals. E ti ho detto tutto. E mi hai detto tutto. Io invece non ti ho ancora detto niente, perché il 2 marzo del 1983, al 16° congresso del PCI, Berlinguer conferma lo strappo con il Partito Comunista di Mosca. Mentre il 29 aprile l'uscita del PSI dalla maggioranza porta alla fine del governo Fanfani e a giugno, 26-27 giugno, si vota per il rinnovo del Parlamento con qualche sorpresa. La DC scende al 32,9. Scende. Il PCI al 29,9, mentre il PSI sale all'11,4%. Il 4 agosto, per la prima volta, c'è un governo guidato da un socialista, è Bettino Craxi. Scusa Ale, però io sono rimasto Jennifer Beals, scusami. Strano, questi Franco, dati, non me l'aspettavo partire, da te. Le cose, le percentuali, capito? Dimmi. Il fatto che le canzoni degli anni 80 sono... si prestano a farsi ballare, diciamocelo, quindi hanno avuto successo, hanno mantenuto il successo perché erano usatissime non soltanto per viaggiare in macchina, ma per nelle palestre. Cioè questi ritmi messi nelle palestre col tuo magari personal training ti facevano ballare, le adoperavano non soltanto in discoteca ma anche a casa, perché gli americani quando si svegliavano la mattina che facevano? Accendevano la televisione, la prima cosa è ballavano queste canzoni, avevano il video davanti e facevano ginnastica. E lo facevano. Senti, grandi attrici. Facciamo una bella prova insieme. Vuoi fare una prova? Dai, facciamo una prova con queste canzoni. Allora, erano Michael Sambello con Maniac e Far From Over, Franco Stallone. Che comunque per la Stallone per me è solo uno, ed è Sylvester. Questo è il fratello. Ah, è il fratello. Hai capito? Lui ha avuto un contratto, pensa, ha detto tu non puoi fare nulla perché tuo fratello ti paga per non fare nulla, perché ci può essere soltanto uno Stallone in famiglia, è vero. Sarà stato felicissimo, però pace detto, in famiglia. Però ha detto, ma almeno una canzone me la fate fare, e ha avuto successo. Comunque, per la cronaca, per i nostri radio ascoltatori, mentre tentavo di ballare qui con Ale, io sono crollato dopo 20 secondi, invece Alessandra, che ha un fisico pazzesco, Franco, stava ancora ballando. E come no, Franco? Sta ancora saltando. Certo. Ho testimoni in regia. Però non tutti i brani, mia cara, avevano bisogno di essere palestrati per avere successo, vero? Sicuramente non queste. Jackson, Billie Jean and Beat It, non era certo bisogno proprio di andare in palestra, comunque ci è arrivato anche lui. Lo sai, caro Alessandra, che quando Michael Jackson ha detto voglio fare un video promozionale a casa discografica, ha detto voglio come regista John Landis, cioè tu stai parlando di un bel investimento, perché un bel investimento, però se lo poteva permettere, perché aveva venduto talmente tanti dischi, ha detto ma sì, facciamo. Ma lo sai che è considerato video, il primo video ad avere una trama e una sceneggiatura? Prima erano un po' più spendevano meno. Comunque, quando Michael Jackson ha detto a un certo punto dobbiamo fare la festa di Thriller perché abbiamo venduto milioni di dischi e quindi anche Quincy Jones è d'accordo, dove la vuoi fare? Ha detto vorrei affittare il Museo di Arte Naturale di New York. Lo ha affittato, ha fatto una festa dove io ovviamente ero, perché mi ricordo, tu ovviamente, sì, è la prima volta che mi sono messo in smoking a New York, perché era un black tie, mia cara, mio capito? Caro. E allora, parlando di black tie, non possiamo non parlare di Sanremo, dove tutti quell'anno erano in black tie, perché il comune finalmente capisce che questa manifestazione ha ripreso, che è un grande mezzo promozionale per la città, e lo dicono facciamolo e facciamolo alla grande. Presenta Andrea Giordana, affiancato da tre delle presentatrici di Disco Ring, in quel momento il programma musicale della domenica più importante, ma non soltanto la domenica. Chi sono? Bella Pettinelli, tanto per dirne una, poi c'è Emanuela Falcetti, Isabelle Russinova, capito? Cioè, ti piace massimo dirlo? Russinova. Perché sì. E poi c'era Daniele Piombi e Roberta Manfredi, che erano collegati dal casinò del teatro Ariston di appunto Sanremo, dove si ascoltava questo. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi esagerata, voglio una vita con vestiti qui, voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai, voglio una vita, la voglio piena di guai. Toto Cotugno con il brano che l'ho fatto conoscere alla platea e poi di tutto il mondo, Russia compresa, e Vasco Rossi, che ancora non era soltanto Blasco, con Una vita spericolata. Ma dopo Sanremo, Franco, nell'estate del 1983, venerdì 17 giugno, Enzo Tortora, il volto di Portobello, viene svegliato alle 4 del mattino dai carabinieri di Roma, che lo arrestano con un'accusa pesantissima. Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo. Sui fatti che hanno portato al suo arresto, più di una ipotesi, nessuna certa. Una vuole che sia rimasto coinvolto per uno sgarro di 40 milioni ai trafficanti di droga, l'altra che sia stato coinvolto nell'organizzazione camorristica da Francis Turatello, del quale sarebbe stato amico. Un arresto clamoroso che Tortora, l'anno dopo, racconta così in un'intervista a Giuseppe Marrazzo. Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni, bussarono alle 4 e un quarto del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine, ecco, mi dissero, dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato, e io risposi, allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo credo che la notizia sia lievemente esagerata. A più di 3 anni dall'inizio del suo dramma, il 15 settembre 1986 Enzo Tortora verrà assolto con formula piena dalla Corte d'Appello di Napoli, ma il nome di Tortora è diventato sinonimo di mala giustizia. Franco, mi guardi perché tu sei rimasto come sempre a Vasco e a Sanremo, però ti dico una cosa, ne parliamo subito dopo la viabilità. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Sono Alessandra Fiori, sono con Franco Schipani. Ciao Ale. E stiamo raccontando il 1983. Franco, cosa ci stai facendo ascoltare? Beh, questo è il brano di Mattia Bazzare che si intitola Vacanze Romane, che si è aggiudicato quell'anno, proprio nel 1983, un premio importante che non è un premio di consolazione, è un premio che piace a molti ed è il premio della critica. Ma tu, Franco, yes, mi guardavi con gli occhi di fuori perché volevi raccontare qualcosa di clamoroso che è successo a Sanremo. Diccelo, dici. Beh, che è successo? Avete sentito prima Vasco, no? Abbiamo sentito, ecco, Vasco se n'è andato perché si cantava in playback, è successo qualcosa con il microfono, lui ha detto delle cose che non doveva dire, butta il microfono e se ne va, e da lì in poi non tornerà mai più a Sanremo. Importante invece è il fatto che quell'anno la TV di Stato russa comincia a programmare il Festival di Sanremo. Ovviamente non fa vedere gli intermezzi pubblicitari quando ci sono i cantanti, quelli rock, quelli strani, quelli con i jeans, tanto per intenderci. Niente. Assolutamente nulla, proibiti. Ecco perché poi i nostri artisti, Toto Cotugno, come Mattia Bazzare, come i Ricchi e Poveri e moltissimi altri, hanno poi avuto un grandissimo successo dietro la cortina di ferro, come la chiamavano una volta, e i loro tour erano sempre trionfali grazie appunto a Sanremo. Ma non soltanto, perché quell'anno io da New York, eccolo, inizio a fare il corrispondente di Disco Ring. Disco Ring di Boncompagni, che in pratica, Franco, è un po' il Top of the Pops italiano. Ma nell'estate dell'83 che altro succede? Beh, innanzitutto c'è il Festival Bar, che dopo una serie di tappe estive, come ogni anno, si conclude all'Arena di Verona tra il 3 e il 10 settembre. Sai chi vince? No. Beh, vince proprio lui. Bollicine, Vasco Rossi, la grande vendetta, Alessandra. Beh, una grandissima vendetta e servita anche calda, abbastanza calda, abbastanza, dai. Abbastanza calda. Comunque, guarda che non c'è soltanto la vendetta al Festival Bar. Said, hey babe, take a walk on the wild side, and the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Ivan Cattaneo, Ho in mente te, che nel 1983, che fa anche rima, inizia a fare il revival dei brani degli anni 70 italiani. Questo era dell'Equipe 84, ve lo ricordate? E prima di lui, Lou Reed, Walk on the Wild Side. Beh, non male. Guarda che io mi ricordo la prima volta che ho intervistato Lou Reed, l'ho intervistato per Rolling Stone Magazine, andai lì con un registratore, il mio tecnico mi disse, ma non ti portare tutti i sinastri, Lou Reed è uno che parla a monosillabi. Portatene uno, guarda, basta ed avanza. Infatti sono andato, nell'intervista lui mi rispondeva a monosillabi. Capita. Fin quando, capita. Però sai, tu stai lì facendo un'intervista e dici soltanto sì, no, pare, non lo so. Tu che ne pensi, cioè non viene bene come intervista. E invece a un certo punto gli chiesi quanto la sua musica, un disco in particolare, era stato influenzato dalla musica elettronica. Fece una pausa e cominciò a parlare e finimmo tutti quanti i nastri, Alessandra, perché lui, a parte Stockhausen, Philip Glass, eccetera, andava pazzo per un nostro compositore che era appunto Luciano Berio. Luciano Berio, aveva, Franco, di tutto lui. Che aveva tu di... mi insegni è uno dei pionieri della musica elettronica, giusto? Esattamente, non ha influenzato soltanto Lou Reed, pensa che lui ha influenzato anche Paul McCartney negli anni 60, i primi anni 60, quando Paul McCartney era al vertice delle classifiche con i dischi leggeri da 3 minuti, lui a Londra, Paul McCartney aprì una libreria di libri underground e poi iniziò a fare uno studio sulla musica elettronica. Ecco dove incontrò George Martin, il loro produttore storico, e così nasce una, come si dice, una storia parallela dei Beatles con la musica elettronica, di cui lui, il nostro Berio, era appunto il vate. Il vate. Franco, lo sai che succede? No. Non lo sai, te lo dico purtroppo, per una volta tocca a me il compito ingratissimo di riportarti alla storia. Perché il 29 luglio del 1983 la mafia uccide ancora. Stamattina, verso le 8:10, in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, di 58 anni, due militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi di 33 anni e l'appuntato Edoardo Bartolotta di 56 anni. Purtroppo la lista dei magistrati è destinata ad allungarsi. Rocco Chinnici, l'abbiamo sentito, è il quarto magistrato ad essere ucciso a Palermo nel giro di pochissimi anni, e 10 anni dopo, nel 1992, sarà la volta di Falcone e Borsellino, membro del famoso pool antimafia nato da un'intuizione proprio di Rocco Chinnici, il magistrato che contribuì in quel periodo di svolta per la lotta alla mafia con il suo lavoro a inquadrare e conoscere meglio il fenomeno. Ma sentiamo Rocco Chinnici in un'intervista di Giulio Borrelli. E la mafia è stata, e fino a quando malauguratamente l'avremo ancora, sarà soltanto mafia, cioè crimine organizzato. Pochi mesi dopo, nell'ottobre del 1983, un colpo durissimo viene inflitto alla mafia da parte dello Stato. Vengono arrestati due capi, Tano Badalamenti, Don Tano, capo della cosca di Cinisi, e Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi. È un momento di grande svolta nella lotta alla mafia, perché Tommaso Buscetta, Don Masino, sceglie di collaborare e inizia a raccontare i segreti di Cosa Nostra. Fondamentale il lavoro del giudice Giovanni Falcone, che per Tommaso Buscetta diventa quasi un confessore. Si riesce a volte a stabilire un contatto umano con un mafioso? Certamente, sono uomini come tutti gli altri. Che vuoi dire, Buscetta, per esempio? Ma sono anche loro persone simpatiche, antipatiche, con un'anima nobile, con un'anima meno nobile, come tutti gli altri. C'è tutta un'umanità. Certo. C'è tutta un'umanità, certo. Per lei chi era Falcone? Io ho conosciuto tanti giudici in vita mia. Li ho conosciuti americani, ne ho conosciuti argentini, ne ho conosciuti brasiliani. E ho conosciuto di tutti i tipi. Però in Falcone io vedevo la dinamicità. E proprio sulle deposizioni di Buscetta si fonda il maxi processo alla mafia nel 1986. Che poi Buscetta, Alessandra, morirà a New York proprio nel 2000. Comunque, restando nell'83, ancora in America, ti voglio raccontare che la musica in TV finalmente viene promossa in modo diverso. E io qui però ti fermo. M'hai perché bloccato. Ti blocco, perché questo ce lo racconti subito dopo la pubblicità. Ok. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. State ascoltando un programma offerto da Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Mix 24. Musica e storia. Bentornati su Mix 24, sono Alessandra Fiori. E io sono Franco Schipani, ciao. E Franco ha tentato il colpo gobbo, voleva eliminare questa meravigliosa canzone, sì, sei impazzito. Sì, ma infatti ragazzi, sarebbe bella averlo. Anzi, Chiappini, scusa, la puoi alzare? Ma do you really want to hurt me? Mi vuoi far piangere, Franco? No, guarda, soltanto perché Antonella Migliaccio era d'accordo dall'altra parte del vetro, perché se no... Ma non esiste. Tu l'avresti tolta, capito? No, va bene, è un bel pezzo. Ma dai, chi è? Dici chi è, dai. Do you really want to hurt me? Ma veramente mi vuoi fare del male? Culture Club con Boy George, con tanto di cappello bombettato alto, che canta. Allora, e poi che altro ci fai sentire? Vi faccio sentire altri due brani che in quel momento andavano fortissimi su MTV. Monkey. Shock the Monkey, Peter Gabriel, ex cantante dei Genesis, and Let's Dance, David Bowie, tipici brani da MTV. Scusami, ma dicendo. Non solo da MTV, David Bowie, che poi sarebbe David Robert Jones, scomparso l'altro anno a New York. Quanto ci dispiace, veramente, ancora lo stiamo piangendo, credimi, un buco... Proseguiamo. Comunque, il trionfo del VJ. Assolutamente, mia cara. Perché? Che poi oggi, scusa, io sono. Non so se lo posso dire, però anche il DJ. dillo. Perché anche il DJ è in crisi oggi, con tutte le playlist pronte, già missate. Chi resiste? Sì, però il DJ o il VJ è un altro tipo di lavoro, ecco, perché sono lì, sono su questo altare, sono degli officianti, ecco. Quindi mettono le loro musiche, fanno i loro mix, sono quelli che regolano la serata, il mood, la festa, la situazione. Ma quale playlist, lo sapevo, Alessandra? Va bene, la liturgia del DJ, ode al DJ. Ode, lode. Pensa che in radio, prima ancora che... Radio Stars, come tu sai, c'erano dei DJ famosissimi in America, tipo Wolfman Jack negli anni 60, che abbiamo visto anche nel film, fra l'altro, American Graffiti. Era lui, Graffiti, che tra l'altro è del 73, però. Sì. E comunque lui è quello che ha fatto la fortuna dei Beatles. Se Wolfman Jack non programmava i Beatles, la gente forse non li comprava. Poi c'era Don Imus negli anni 70, che è stato veramente una leggenda, e poi Howard Stern, che è arrivato come un ciclone, ha combinato di tutto, è stato uno dei primissimi che in regia ha messo il video, quindi tu lo potevi sentire, ma lo potevi anche vedere, ti assicuro che era veramente uno spettacolo, perché lui si portava delle spogliarelliste addirittura nello studio, cosa che qui invece non facciamo, vero? E comunque io ero perdutamente invece innamorato di lei. I'm Allison Steele, the lovebird for tonight here at WNEW FM in stereo until 2 o'clock, and we're going to send as many valentines as we can. They're not all such pretty love songs, I mean they're all pretty songs, but we e said questa that. È la mia Alison Steele. Non piangere, senti, però voce, senti, non, ti, non piangere, ma non sai perché. Poi noi non sapevamo lei com'era fatta, cioè noi era Alison Steele il massimo, la fantasia scatenata dalla voce di lei, assolutamente. Poi un giorno stavo su un volo della Delta Airlines, stavo dicendo, dove c'è il programma delle radio che tu senti in cuffia, c'era scritto Alison Steele, lo sapevo che nella sua biografia c'era anche la foto, ho detto no, non la voglio vedere, non voglio deludere, non voglio, guarda, è quasi bella quanto te. Franco, ma come ti sei svegliato stamattina? Ma io sono felice. Ma sì, se solo ti potessero vedere, se solo potessimo avere un video qui e potessi vedere la nostra meravigliosa. Bene, fateci sentire qualcosa, vi prego. Fermate Franco. Rod Stewart, Who Can They Be Now, Men at Work, australianissimi. Io aspetto sempre Downtown Train. me l'hai promesso, non arriva un mai di, un giorno di questi arriva. Comunque ti voglio raccontare un aneddoto di Mick Jagger e Rod Stewart. Sentiamo. Dunque, i Rolling Stones stavano cercando un chitarrista perché Mick Ronson se n'era andato, si guardano intorno, sono inglesi e dicono, beh, sai chi prendiamo? Prendiamo Ron Wood. Ma Ron Wood in quel momento era il chitarrista ufficiale di Rod Stewart, che è un po' un problema, è un po' problemuccio. Allora gli dicono, vuoi venire con noi? E lui dice, ma ovviamente, se Rolling Stones arrivo immediatamente. Ecco, Rod Stewart e Mick Jagger per 25 anni non si parlano, si incontrano ai Grammy Awards, si ignorano, cioè ormai il freddo giorno Mick Jagger si rompe le scatole e invia a Rod Stewart un telegramma, attenzione, urgente. Un telegramma. Caro Rod, abbiamo bisogno di un chitarrista. Ti dispiace se chiediamo a Ron Wood di unirsi a noi? Fammi sapere, per favore, è urgente. Beh, hanno fatto pace. Ma scusa, ma è un modo meraviglioso di far pace questo. È anche un modo meraviglioso di non chiedere scusa, comunque. Non male, Mick. Ti ho dato un'idea. Mi hai dato un'idea. Intanto, il 18 marzo del 1983 si chiude definitivamente un capitolo della nostra storia. In esilio, a Ginevra, muore l'ultimo re d'Italia, Umberto di Savoia, il re di Maggio, una figura controversa, travolta dalle colpe di Casa Savoia. Così in un'intervista del 79 a Nicola Caracciolo. Lei non era d'accordo per lasciare Roma. Aver lasciato Roma in quel modo? Sì. Può essere uno sbaglio. In quel modo senza avvisare i ministri? Ecco, quella era l'unica mia... Sì, la cosa che ancora adesso, naturalmente sono convinto che è stato un peccato. Che i ministri non abbiano avuto la possibilità di anche loro di raggiungere il re oppure di prendere le loro disposizioni. Mentre il 22 giugno del 1983 si apre un drammatico giallo italiano. La quindicenne Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, sparisce. Il 3 luglio del 1983, nell'Angelus, l'appello di Papa Wojtyła. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. E subito dopo Natale, il 27 dicembre del 1983, nel carcere romano di Rebibbia, lo stesso Giovanni Paolo II incontra il suo tentatore, Ali Atka, che così ricorda quel giorno. Ricordo, direi, forse il più bello momento della mia vita, posso dire. Ecco. Lo ricordo quando il Papa è venuto, se agiva, se fosse a casa di un... suo vecchio amico, è stato venuto così, così sereno, così amichevole, mi ha colpito veramente. Io l'ho chiesto, santità, pregate per me. Lui ha detto, fratello, io prego ogni giorno per te. E questa frase mi è impressa nella memoria, non ho mai dimenticato, lo ricordo sempre. Il giorno più bello della sua vita. Franco, abbiamo parlato della vendetta, ma forse il perdono, in fondo. È più bello il perdono della vendetta. Più difficile. Sì. Però in effetti è molto più grande il perdono. Franco, restiamo alla tua New York, alle tue radio super specializzate. Capisco il tuo amore non corrisposta. Lo grazie, capisco. Grazie. Alison Steele, io lo capisco. Capisco l'amore per il rock. Ma c'erano anche frequenze più leggere. Assolutamente, cara Ale. Aveva anche un grande successo. Colonne leggere che poi sentivi dappertutto, negli ascensori, nei grandi magazzini. La musica d'ascensore, mi stai presentando? Sì, però senti un po' che musica d'ascensore. Christopher Crossing, You Can Do Magic, America. Alessandra, dimmi. Ma tu lo sai che ci sono delle società in America che sono specializzate nel confezionare musica da ascensori? Ah! Perché pagano i diritti. Per la musica da ascensore. Comunque questa era, avevi ragione, non è male. Non è male. Non è proprio musica da ascensore, Franco. Secondo me non confezionano questa. Comunque, restando nei tuoi Stati Uniti, Franco, cosa ci siamo persi sulle hit italiane? Cioè, quali sono le canzoni che non sono mai arrivate o arrivate in ritardo che avremmo dovuto ascoltare? Cara Alessandra, è una scelta tostissima, però insomma qualche pezzo devo assolutamente tirarlo fuori. Sexual Healing, Marvin Gaye, 1999, Prince. Anche lui scomparso nel 2016. La gente ha pianto, anche per David Bowie, ma per Prince. Io pianto anche per Marvin Gaye, che fra l'altro è stato ucciso dal padre, pensa, dentro casa con un colpo di pistola, cioè nel posto dove meno te lo aspetti, e dalla persona. Dal padre, sì, così, a casa. Un colpo di pistola, Marvin Gaye, out, ciao. Ciao, Franco, però scusami, io ho notato una gravissima mancanza nostra. Dimmi. Siamo negli anni Ottanta. E non questo abbiamo... è inevitabile, lo sappiamo. Franco, ma non ne abbiamo ancora parlato. Madonna, di chi dobbiamo parlare? Franco, il vero fenomeno italiano degli anni Ottanta è l'unico, lui, i paninari. Bravo, paninari. Allora, i paninari. I paninari. Sono milanesi innanzitutto. Ecco, non è mica colpa nostra, eh? Cioè, nascono a Milano. Nascono. I paninari ufficiali nascono a Milano e sono pazzi per la griffe, ovviamente, la moda, la niente marca. Imitazione, assolutamente, allora. Assolutamente no. Altrimenti cos'eri? Eri un truzzo. Esatto, eri un truzzo. Dal loro vocabolario, roba falsa, sei un truzzo. E poi, naturalmente, passione smodata per il fast food. Ma in effetti diciamo che il boom del fast food è già iniziato, poi ci saranno quelli che arriveranno alle grandi catene in Italia dopo, però intanto loro si fanno i loro paninazzi, quindi... E poi, sì, allora, abbiamo la passione smodata per la moda, smodata, moda, smodata, moda. E abbiamo i panini. Sì. E in pratica sono da una parte gli effetti ritardati del boom, lode al consumismo in pratica, e poi soprattutto un'ondata di riflusso e disimpegno dopo gli anni 70, che è stato il decennio turbolento e fortemente politicizzato. Esatto, dicevano basta, il nostro obiettivo primario qual è? Quello del paninare, di godersi la vita, beato lui. E allora ecco il vate, il portavoce, il leader opinion, il re dei paninari. Vieni qui, dai, che ti porto in un posto troppo giusto. E lì ti rivolto come una tasca. Wild boys, wild boys, wild boys, wild boys. Sono il paninaro. No, meno male che non ha accettato, perché sennò non sapevo mica dove portare. Franco, sei troppo giusto. Troppo. Enzo Braschi. E poi... gli anni di drive-in, che inizia proprio in questo 1983. Io ero negli Stati Uniti in quel momento, non lo vedevo perché ancora non c'erano i satelliti, internet eccetera, però l'eco di Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo sono arrivati. Ho dimenticato Carmen Russo, Tini Cansino e poi chi altri? Lori del Santo, le ragazze del fast food e poi le adolescenti, quelle definite limonelle, e poi arriverà insomma anche un terzo gruppo di ragazze, le famose bomber, vero? Che siamo un po' ai prodromi di Non è la Rai, esatto, però esatto. È ancora lontano, non lontanissimo, arriverà nel 91 e noi ne parleremo, Franco. Certo, assolutamente. Ma che ascoltano questi paninari nel 1983? Beh, vuoi sapere quali sono i loro idoli? Eccoli. Gli idoli dei paninari erano i Duran Duran, erano Boy George, erano i Pet Shop Boys. E questi che abbiamo Simple appena Minds, sentito. Ma soprattutto Frankie Goes to Hollywood, Relax. Don't do it. Don't do it. Beh, un manifesto, un inno, è perfetto. Assolutamente. Senti, ma in tutto questo però, la disco, dove è andata a finire? Dove è andata a finire? La disco funziona. Stand again, my place and fall. Ieri sera un DJ ha salvato la mia vita. Last night a DJ saved my life. In deep, say, Paul McCartney, Michael Jackson and Karma Chameleon, Chameleon Culture Club. Franco, estate 1983, Italia adesso. A me viene in mente subito una canzone. E sarà anche quella che è venuta in mente a me. Vamos a la playa. Vamos alla playa, Righiera. Era lo stesso brano, Franco. Stesso uguale, beh, era lui. Era il brano dell'estate dell'83. E subito dopo l'estate, il 30 ottobre, dopo 7 anni di dittatura, ritorna la democrazia in Argentina. Vince le elezioni il candidato radicale Raúl Alfonsín. I militari argentini stanno per abbandonare la Casa Rosada, questo palazzo che in Argentina è il simbolo del potere, e si accingono quindi a restituire ai civili il governo del paese dopo una dittatura che è durata 7 anni e mezzo. Eletto presidente della Repubblica e del intanto governo. Il 9 giugno in Gran Bretagna c'è stata una grande vittoria per i conservatori, con il secondo mandato per Margaret Thatcher. E di nuovo in autunno, invece, il 5 ottobre del 1983, il Nobel per la pace va al polacco Lech Walesa, leader di Solidarność. E restando in tema di pace, l'11 aprile Gandhi, di Richard Attenborough, vince 8 premi Oscar, mentre Carlo Rambaldi vince per gli effetti speciali di E.T. Ed esce per Feltrinelli La casa degli spiriti di Isabella Allende. L'83 è anche un grande anno di sport. Secondo me ti ricorda molte cose, Franco. Giuseppe Saronni grande vince Saronni. Il Giro d'Italia. Una barca italiana, azzurra, partecipa all'America's Cup e si classifica terza. E gli italiani riscoprono improvvisamente la passione per la vela. Deve essere una cosa ciclica, perché poi luna rossa. Ma ciclica è vero, perché io mi ricordo quando nell'83... C'è stato l'annuncio, cioè io sono andato in un negozio e mi sono comprato la più grande televisione disponibile, l'hanno portata in 4 persone su dei cavi d'acciaio, era quadrata ma era enorme, Franco, megalomane. Enorme. E ci vedevi anche il basket, perché per la prima volta vinciamo gli europei. Ma soprattutto, Franco, l'8 maggio, dopo 41 anni la Roma di Nils Liedholm vince il suo secondo scudetto. La Roma dopo 41 anni è campione d'Italia. È stato uno scudetto meritatissimo, raggiunto dalla squadra giallorossa dopo tutto un campionato condotto in testa. Antonello Venditti tiene un leggendario concerto gratis al Circo Massimo per festeggiare lo scudetto della Roma. Tu non c'eri, Franco, tu eri in America. Non c'ero neanch'io. Io ero nata, ma non ero lì. Io ero lì invece con lo spirito e con il cuore. Lo sai che io non so cosa tifi, ma non lo voglio sapere. Siamo al termine di questo 1983 e questa volta Antonello Amigliaccio non ha scelto una cover, ma una canzone che quest'anno non può mancare in una versione insuperabile. L'abbiamo riciclata, insomma. No, l'abbiamo ritrovata. Antonella Migliaccio non ha scelto una cover. È un'archeologa, brava, brava. Antonella fa la sua scelta. Cosa ci fa sentire? Nada, amore disperato, cantata da Nada. Ci sentiamo nel 1984, noi? Assolutamente. Ciao Alessandra. Ciao Franco, a venerdì prossimo. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sasso. Ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo.